Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori. Saluto il presidente Carlo Garofolini che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi, come dire, c'è un po' di acidità, quella che viene quando inizi a parlare di modello 730 e dichiarazione dei redditi. A me fa questo effetto, mi viene su, come dire, un po' di acidità gastrica, soprattutto se pensiamo agli effetti del modello precompilato, tanto pubblicizzato anche se vogliamo, perché dovrebbe semplificare la vita del contribuente, ma di fatto le cose non sembrano che vadano in questa direzione. Cosa hai da dire su questo, Carlo? Allora, innanzitutto, Francesco, volevo già dire con una battuta, perché quando ci troviamo a parlare della dichiarazione dei redditi vuol dire che siamo un anno più vecchi. Sì. E promesso questo, sabato l'Adico ha cominciato a dare il solito servizio, come da tutti i sabati di maggio, di assistenza alla compilazione 730, e abbiamo notato che tutti quelli che erano i nostri presentimenti e sospetti veramente sono stati centrati tutti, e cioè che quello che è stata una novità proposta dal governo, denominata 730 precompilato, in realtà ha creato una confusione totale, a tal punto che veramente anche gli operatori che ogni anno erano abituati a operare in un certo modo alla fine si sono trovati nella confusione più totale di queste persone che sostanzialmente si sono presentate diciamo un po' in ordine sparso. Io me lo sono sempre fatto 730, poi lo portavo ai CAF che me lo verificavano e via, insomma non ho mai avuto grossi problemi. Adesso so che dovrò farmi dare il PIN, entrare nel sito dell'Agenzia delle Entrate, insomma una cosa abbastanza articolata e complessa. E poi sono cambiate anche gli eventuali problemi se uno sbaglia nella compilazione, giusto? Ho capito che Francesco vuoi farmi veramente inacidire il sangue. Battuta a parte, il 730 è stato al momento un fallimento, perché se il senso era quello di semplificare le cose, e noi questo l'abbiamo appreso con entusiasmo, a bilanci fatti non ha semplificato la vita a nessuno. Oggi non è pensabile che gli anziani si possano collegare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, richiedere un codice PIM di quale agenzia te ne danno un pezzo, l'altro pezzo te ne arriva per posta, per poi ricollegarsi, poterlo scaricare o ti arriva a casa per posta, e tu devi essere in grado poi di verificare quelli che sono i dati inseriti sul precompilato, perché altrimenti vuol dire che chi andava prima a capo oggi non serve più che vada, perché se è in grado di verificarlo vuol dire che è in grado di farselo. Quindi sostanzialmente, come hanno cercato e si sta cercando di risolvere questa problematica, i CAF si stanno organizzando per dotarsi di una delega in quale la persona viene qui e la firma, la compila, la consegna, e CAF quindi può accedere a quello che è il 730 precompilato. Ma poi, dovendo verificare un po' quelli che sono tutti i dati inseriti nel 730 precompilato, è chiaro che ha bisogno di tutta la documentazione. Pertanto, avendo bisogno di tutta la documentazione, ci troviamo con un elenco di cose da consegnare, e quindi ritorniamo al punto di partenza con un 730 telematico da dover recuperare, con tutto il faldone della documentazione cartacea da dover conservare con sé. Partendo dal presupposto che quindi c'è un doppio lavoro in questo senso, e c'è anche una doppia responsabilità per chi poi come CAF gli deve assumersi la responsabilità della sua compilazione dell'invio telematico, in quanto quest'anno non sono più tenuti a restituire solo gli oneri e gli accessori delle multe derivate da un eventuale sbaglio, ma anche la cifra se questa è stata sbagliata e magari la persona gli è stata corrisposta. Quindi c'è una doppia responsabilità e un dimezzamento del contributo, ma a parte questo c'è un doppio lavoro per chi ci sta dietro. L'Adico sabato, come tutti i sabati di maggio, abbiamo detto, è rimasta aperta, sono venute circa una trentina di persone, ma oggi abbiamo visto che sostanzialmente le persone che sono venute sono quelle che hanno abituato a farselo, ma che quest'anno appunto non sapevano come muoversi. Mm-hmm. Oltretutto ricordiamo che i pensionati devono scaricarsi per esempio il CUD dal sito dell'INPS, cioè siamo troppo lontani rispetto a quella che può essere una semplificazione che vada incontro a quelle che sono le reali esigenze delle persone che in questo momento non sono in grado di essere soddisfatte. Certo, dovrebbe esserci lo stesso sito che ti propone il 730 precompilato, che ti propone anche il CUD, cioè tutto, insomma, dovrebbe essere tutto insieme, è tutto molto più facile. Che dire, ricordiamo allora l'indirizzo dell'Adico, se qualcuno magari sabato mattina vuole venirvi a trovare, e anche gli orari magari. Allora, noi a parte sabato 25 aprile siamo aperti appunto tutti i sabati di maggio fino alle 1 di mattina, dalle 9. Le persone devono ricordarsi che soprattutto quest'anno devono presentarsi con gli originali e le copie, perché poi gli errori più comuni sono che le persone non hanno mai con sé la documentazione completa. Abbiamo avuto addirittura persone che sono venute con le fotocopie senza gli originali. Quindi l'importante è sempre, quando si va a un CAF, non dico io che non sono un CAF, ma dico chi magari deve fare questo servizio, che le persone vengano con gli originali già duplicati, con il codice fiscale, la dichiarazione, documento di identità ed evidenzi quelli che sono le variazioni rispetto all'anno precedente, magari del lavoro o di figli a carico. E poi ricordiamo che per esempio il contributo del Servizio Sanitario Nazionale della RC Auto, per esempio, rispetto all'anno scorso non è più detraibile, quindi anche questa purtroppo è un piccolo balzello che ci hanno fatto pagare. Mm-hmm. E soprattutto che quest'anno non si chiama più CUD ma certificazione unica, e anche questa dovremmo trovarla sul precompilato o scaricarla su internet. E vabbè, sicuramente anch'io avrò i miei bei problemi, mi dovrò mettere un po' in anticipo a guardare le cose. Di solito le facevo un po' all'ultimo momento, invece quest'anno ho capito che devo iniziare a darmi da fare. Quindi è un invito anche a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto, eventualmente rivolgersi a un CAF, rivolgersi anche all'Adico, www.associazionedifesaconsumatori.it, per eventuali dettagli e aiuti anche telefonici, perché no? Sì, grazie. Io scusa se ti interrompo, in conclusione voglio dirti che noi proprio sul sito dell'Adico ogni settimana, l'abbiamo fatto anche qualche giorno fa, pubblichiamo sempre quelli che sono l'elenco dei documenti necessari da portare proprio per aiutare il consumatore che insomma è preso quel modello come me, come te, come tutti, o che magari vuole venirci a trovare per ricevere l'assistenza. E già questo è un bel aiuto, direttamente dal sito, sapere quali sono i documenti che servono. Grazie quindi a Carlo Garofolini con l'Adico, ci ritroviamo la settimana prossima. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.